Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va? Benvenuti ancora a Fumetti a Sinistra, un mondo dentro a un balloon, in una giornata come quella di oggi, del 25 aprile, che vede ovviamente la trasmissione interamente dedicata alla liberazione e alla lotta partigiana. Naturalmente lo facciamo alla nostra maniera, tramite quelle nuvolette dei fumetti che sono il pane quotidiano di questa trasmissione. Cominciamo da due autori del Pioniere, Clario Onesti e Vinicio Berti, che hanno scritto e disegnato sulle lotte della resistenza al nazifascismo. Lasciamo la parola allora a Nadia Nicolai della collezione Luciano Nicolai, che è una preziosa raccolta di tutti i fumetti legati alla resistenza dal 47 ad oggi. Clario Onesti è un ottimo disegnatore specializzato in copertine. Allarme sull'Arno, un fumetto pubblicato sul Pioniere, sul numero 16 del 57 del Pioniere, poi è stato ristampato sul Pioniere dell'Unità nel 64 e infine poi è stato raccolto nell'antologia partigiana dell'Almanacco 2, sempre La Libertà, sempre del Pioniere nel 74. Clario Onesti ha dedicato evidentemente questo fumetto proprio ai ragazzi, ai bambini, perché prima di tutto introduce la presenza di due piccoli ragazzini, di due ragazzini che aiutano l'eroe Fulmine, che è l'eroe tipico romanzato, diciamo un po' il partigiano romanzato, aiutano l'eroe a catturare un tedesco. Questo probabilmente è stato introdotto da Clario Onesti, considerando che nel 51 il Pioniere aveva stampato, aveva pubblicato un fumetto molto interessante sulla liberazione di Napoli, e quindi laddove naturalmente gli Sciuscià facevano da protagonisti, chiaramente. Sì, come partecipanti effettivi, effettivamente come anche partecipanti alla resistenza. Effettivi. Sì, nella... Ora, diciamo che anche la popolazione fiorentina è stata molto attiva durante la battaglia di Firenze, perché Allarme sull'Arno, a differenza del primo fumetto, si riferisce alla battaglia di Firenze, che poi finì nel settembre. Lui ha messo probabilmente questi due ragazzi per uno scopo educativo. Questo è quanto pensiamo noi, può darsi anche che siano altre le cause, però senz'altro, considerando la pubblicazione fatta nel 51 di Scugnizzo, forse lui ha voluto dare ai ragazzi un maggiore apporto di quello che forse in realtà non hanno avuto. Sì, considerando anche che il Pioniere era un'illustrazione, un giornale illustrato proprio per ragazzi e bambini, ragazzi, quindi ha voluto valorizzare, diciamo, la figura, una figura, di bambino, sì. E Allarme sull'Arno è un po' un fumetto della realtà, così, chiamiamolo così, però è romanzato, in quanto viene attribuito al partigiano Fulmine, ossia al protagonista, tutta una serie di eventi che invece sono stati nella realtà corali. Quindi non c'è quell'aderenza alla realtà che, per esempio, si dice nel fumetto che Fulmine abbia tentato la rimozione delle mine dai ponti di Firenze che erano stati minati. Invece sappiamo che invece l'operazione fu fatta da dei GAP fiorentini, che addirittura ebbero un paio di morti in queste operazioni. L'altra cosa che è sicuramente un po' romanzata è il suo attraversamento del corridoio vasariano per mettere in comunicazione le due rive dell'Arno, il di là e il di qua d'Arno, insomma, dove il di là d'Arno dove si trovavano gli alleati e una parte delle forze partigiane. In effetti questo attraversamento fu fatto da un gruppo di tre persone, e in cui naturalmente fulmine non aveva avuto nessun motivo. L'altra cosa che abbiamo rimarcato è il fatto che effettivamente il fumetto parla dell'intervento dei cosiddetti franchi tiratori, che a Firenze fu una cosa terribile, e la lotta che hanno fatto poi tutte quante le forze politiche per riuscire a eliminare i franchi tiratori che ammazzavano indifferentemente civili, partigiani, alleati dai tetti di Firenze. E anche in questo caso naturalmente gli è stato dato un'importanza relativa. L'altro punto di vista che ci piace sottolineare è il fatto che si parla, sempre in Allarme sull'Arno, del funerale di Potente. Potente era personaggio amatissimo dai fiorentini e quando purtroppo fu colpito da bomba e purtroppo morì, per lui furono fatte delle onoranze funebri estremamente importanti, estremamente sentite, perché era uno degli eroi della resistenza fiorentina. Nadia Nicoletti, volevo chiedere un'altra cosa che è questa. Tu mi sai dire anche qualcosa su Vinicio Berti relativo al pioniere, al suo tratto, alla sua grafica? Sappiamo che Vinicio Berti è un grandissimo pittore astrattista che era un convintissimo comunista che ha lavorato per il pioniere in maniera ampia e estremamente egregia, tramite naturalmente sempre il pioniere, ha pubblicato un fumetto intitolato Ore 6:31 precise. È un fumetto che riguarda praticamente il Vorno, perché si tratta di un'azione che i partigiani dovevano fare facendo saltare un treno che passava dal ponte di Calafuria alle 6:31 precise. Purtroppo però prima di questo treno doveva passare un treno di antifascisti sulla stessa linea e a pochissimi minuti di distanza dal treno, da far saltare. C'è tutta una serie di azioni che questi partigiani fanno in modo da arrivare in tempo sia a salvare gli antifascisti dalla deportazione, perché naturalmente dovevano essere deportati in Germania, e riescono a ottenere questo, e successivamente riescono anche a far saltare il treno sul ponte di Calafuria alle 6:31 precise, quando questo doveva passare. Quindi è interessantissimo vedere un attimo, non sappiamo se questa è un'azione veramente avvenuta, probabilissima dato le caratteristiche che aveva la resistenza anche livornese, però non siamo certi della sua veridicità totale perché certo. Naturalmente pur non essendo esattamente magari attinenti alla storia, indicano e caratterizzano benissimo un periodo, un'atmosfera, le reazioni delle popolazioni che in quel momento stavano subendo grossi problemi. Berti ha un'innovazione diversa perché poi verrà riportata. Berti perché era un astrattista famoso, incredibile, mentre il suo fumetto pubblicato sul pioniere, ossia Ore 6:31 precise, evidentemente per il soggetto Berti ha preferito lavorare con delle immagini quasi neorealiste, a differenza di quello che ha fatto negli altri campi. Oh ragazza dalle guance di pesca, oh ragazza dalle guance d'aurora, io spero che a narrarti riesca la mia vita all'età che tu hai ora. Copri fuoco la truppa tedesca, la città dominava, siamo pronti. Chi non vuole chinare la testa con noi prenda la strada dei monti. Silenziosa sugli aghi di pino, su spinosi ricci di castagne, una squadra nel buio mattino discendeva all'oscura montagna. La speranza era nostra compagna, assaltar caposaldi nemici, conquistandoci l'armi in battaglia, scalzi e laci eppure felici. Avevamo 20 anni e un bel ponte, oltre il ponte che in mano nemica, credevamo l'altra riva la vita, tutto il bene del mondo oltre il ponte, tutto il male avevamo di fronte, tutto il bene avevamo nel cuore. A 20 anni la vita è oltre il ponte, oltre il ponte. La resistenza può essere raccontata in molti modi, anche attraverso i fumetti, ma non solo storie vissute nella fantasia e nell'epopea partigiana, ma anche vicende storicamente accadute, come quella raccontata dalla battaglia realizzata da Nikolaj Pavliuchkov sotto la supervisione del fumettista Alessio Spataro per la Scuola Popolare di Torpignattara di Roma. E qui si narra la triste sorte del partigiano Giordano Sangalli, partigiano del quartiere, morto a 17 anni sul Monte Tancia, una generazione sacrificata sull'altare della libertà. Ce ne parla la storica Stefania Ficacci e lo stesso Nikolaj. Giordano Sangalli era nato nel 1927 ed era di Torpignattara, era uno dei pochi romani, perché in fin dei conti sono quartieri che a quell'epoca vivevano una forte immigrazione. Entra, diciamo così, nella resistenza in realtà soprattutto per necessità, perché essendo un renitente alla leva, classe 1927, sono gli ultimi ad essere chiamati dall'esercito della Repubblica Sociale Italiana, e deve vivere da clandestino e vivrà da clandestino nei mesi appunto dell'occupazione, per poi invece entrare nella rete di resistenza, appunto di conoscenza, soprattutto con partigiani molto giovani come Clemente Scifoni, per esempio, che era un suo carissimo amico e che è stato uno dei protagonisti della resistenza di Torpignattara. È costretto a fuggire sul Monte Tancia perché le SS Kappler, il capitano divenuto colonnello Kappler, si concentrano proprio in quest'area. Arriverà nei primi giorni di aprile l'ordine appunto di pulizia dell'area reatina da parte del prefetto di Rieti, insieme ovviamente alle SS tedesche, e purtroppo l'uccisione, la morte di Giordano Sangalli è una morte anche in un certo senso eroica e drammatica nello stesso tempo, perché probabilmente è anche, come dire, l'ingenuità, la forza, l'energia anche dei giovani che appunto si gettano in maniera appunto quasi ingenua di fronte a questa avanzata delle SS sul Monte Tancia, ma che in un certo senso diventa un sacrificio, perché grazie purtroppo alla loro morte, quindi al loro opporsi a questa polizia tedesca, i partigiani della brigata Ercole Stalin, cioè i partigiani di Torpignattara del Quadraro, riescono a mettersi in salvo. Ho cominciato nell'autunno del 2016 a fare questo corso di fumetti con quattro giovani più o meno abitanti nel quartiere, e il fumetto La Battaglia era soltanto un approdo finale. Con Nicolai in particolare è stato interessante perché lui ha fatto per la prima volta un fumetto, con la difficoltà in più rispetto a tantissimi autori professionisti di non avere il volto tra le mani di Giordano Sangalli. Perché non c'era nessuna fotografia. Perché non c'era nessuna fotografia, non c'era nessuna documentazione fotografica, iconografica di alcun tipo, e lui praticamente si è dovuto improvvisare. Questa foto, che non si trovava all'archivio centrale di Stato, quindi nel fondo della richiesta di riconoscimento di partigiani, ma l'abbiamo trovata invece spillata malissimo, quindi in una nell'archivio invece dell'Ampi Provinciale. E da lì abbiamo ritrovato il volto e adesso è nostro, insomma. Io ho fatto delle ricerche su con delle foto storiche documentate prese da libri. Dopo è stata ritrovata la foto e è stata una sorpresa molto, molto bella, perché comunque sia il personaggio assomigliava realmente. Siamo riusciti a ritrovare qualche nota biografica di Giordano Sangalli, soprattutto ritrovare il luogo sul quale mettere la pietra d'inciampo, che è l'ultima abitazione in fin dei conti di Giordano Sangalli, che è quella di via dell'Acqua Pulicante 133. È una storia veramente di una gioventù in qualche maniera sacrificata, esattamente come quella della Prima Guerra Mondiale ed altro. E mi serviva, lo voglio dire, insomma, la figura di Giordano Sangalli per tessere una relazione con i giovani della sua età. Lassù, sulle montagne, sventola bandiera nera, è morto un partigiano nel far la guerra, è morto un partigiano morto nel far la guerra. La meglio gioventù che finisce sottoterra. E se tornasse il Duce, quello dalla mascella maschia e volitiva, lo immaginano in modo satirico Stefano Antonucci e Daniele Fabbri con una serie di fumetti. Quando c'era lui? Di che cosa si tratta? Ce lo spiega lo stesso Daniele. Sono un autore, attore comico satirico. Mi occupo di satira da un sacco di tempo. Principalmente io faccio lo stand-up comedian. Da qualche anno, oltre agli spettacoli dal vivo, mi occupo anche di fumetti. Faccio lo sceneggiatore perché non so disegnare, e questa è la mia grande sfortuna e la fortuna del disegnatore che lavora con me, Stefano Antonucci, che invece non sa scrivere, ma proprio non sa scrivere nemmeno in italiano. Ciao Stefano. E quindi noi da qualche anno abbiamo iniziato a lavorare insieme nel mondo dei fumetti. Quando c'era lui è una miniserie di 4 volumi e la storia è praticamente un gruppo di estrema destra italiana ai giorni nostri che, lamentando il fatto che i leader dell'estrema destra di oggi sono piuttosto deludenti rispetto ai veri valori del fascismo, proprio quelli di quando c'era lui, appunto, delusi da questa situazione politica, decidono di fare un esperimento come quello di Frankenstein Junior, praticamente, al quale ci siamo ispirati, per riportare in vita Mussolini ai giorni nostri e affidargli di nuovo le sorti del paese, perché è praticamente, a nostro avviso chiaramente, quello che la maggior parte della gente che sta sempre a ricordare quando c'era lui e ad inneggiare a Mussolini, è quello che le persone vorrebbero in qualche modo. Una tavola in cui uno di questi militanti, insieme a un altro dei personaggi che è un ex gerarca nazista di quelli esperti di eugenetica, preparano il crowdfunding, perché chiaramente riportare in vita il Duce è un'operazione costosa, servono gli strumenti, e allora loro preparano un'operazione di crowdfunding su internet per avere i fondi. Il fumetto nasce da una mia idea antifascista. In Italia il problema del fascismo latente io penso assolutamente che esista. Il fascismo in Italia, a livello del fascismo proprio quello delle botte, è una cosa che ancora esiste, c'è, non viene mai raccontata per una serie di dinamiche mediatiche e politiche molto precise, ma c'è. Se ancora non hai capito perché il razzismo è sbagliato, io non c'ho proprio più niente da dirti. Se non li conoscete, guardateli un minuto, li riconoscerete dal tipo di saluto. Lo si esegue a braccio teso, mano aperta, dita dritte, stando a quello che si è appreso dalle regole prescritte. È un saluto singolare, fatto con la mano destra, come in scuola elementare si usa a far con la maestra, per avere il suo permesso di assentarsi e andare al cesso. Ora li conoscete, senza dubbio a prima vista, solamente chi è fascista fa questo saluto qui. Oggi li chiamano sovranisti, ieri camicie nere. Possono mascherarsi anche in modo differente, ma sempre sventolano abusivamente l'italianità come diritto e supremazia di sangue tra razzismo ed intolleranza, dramma e ridicolo, come nel ventennio al tempo dell'autarchia. Verso la fine del 38 l'autarchia si estende al settore culturale. La Commissione per la Bonifica Libraria, istituita dal Ministero della Cultura Popolare, ha disposto che i classici russi, gli inglesi e gli ebrei scompaiano dai negozi. La stessa sentenza era già stata decretata qualche mese prima contro gli eroi stranieri dei fumetti. Ed ecco che un'arditissima operazione Oriundi salva i più popolari, come Buffalo Bill. Vi ringrazio, Buffalo Bill. Sono l'ingegner Carboni, italiano. Italiano? Mo anch'io sono oriundo italiano. Il mio vero nome è Domenico Tombini. La mia famiglia era di Faenza. Mandrake the Magician diventa Mandrake, scritto all'italiana, e finisce ingaggiato dai servizi di sicurezza del Reich, finché una nuova temeraria operazione Oriundi consente il recupero del più leggendario degli eroi dei fumetti, l'uomo mascherato. Amici, è venuto il momento che sappiate anche voi, come il mio fido segretario italiano Franco, chi sono. Dovete sapere che nel 1618 Don Felice Zeno, gentiluomo veneziano e mio antenato, lasciava le coste della Nuova Spagna. Don Zeno si scontrò con le Breton, il filibustiere. Caro il veneziano! Don Zeno si impossessò del tesoro dei filibustieri e da quell'epoca il tesoro ci servì generazione per generazione a compiere cose buone. Generazioni di uomini generosi e buoni. Realtà italiana questa. Il nome! Sputa fuori il tuo nome, canaglia! Levi! Abramo Levi! Un ebreo! L'avrei giurato! Razzista, picchiatore, non tanto intelligente, Dick Fulmine è il personaggio emblematico di questa cultura. In Dick Fulmine il mito dell'azione si innesta sul modello di italiano novo voluto e potenziato dal regime. Dick Fulmine ragiona in termini di violenza, esercitando la preferenza su neri, gialli, indiani, meticci. Di quando in quando il suo bersaglio è un russo. Possibile che per far tacere la gente debbo sempre distribuire pugni? Questi sono pugni che vengono dall'Italia, garantiti autentici. Durante i primi minuti Fulmine si mette a parare i colpi del campione sovietico ripugilato. Poi, improvvisamente... Come puzzate, figli del celeste impero! Oh, guarda un po' lassù! Se non li conoscete, norma elementare, guardare la maniera con cui sanno marciare. Le ginocchia non piegate, vanno al passo tutti quanti, chi sta dietro la pedate, nel sedere a chi sta avanti. Chi le piglia senza darle e chi marcia in prima fila, chi le dà senza pigliarle, siano in 10 o 10.000, e chi un po' meno va bene sta alla coda del corteo. Ora li riconoscete, senza dubbio a prima vista, solamente chi è fascista marcia in questo modo qui. In tutte le guerre c'è chi scappa da casa lasciando tutto per sfuggire alla violenza, alla miseria, alle bombe. La storia si ripete nel tempo e nei luoghi. Riascoltiamo la fuga da un paesino nella Seconda Guerra Mondiale e lo facciamo con gli occhi di una bimba di 9 anni, leggendo da Gina racconta storie, edito da Topi Pittori, scritto da Antonella Toffoli. Cos'era successo quella volta? Beh, avrò avuto all'incirca 8-9 anni. Era che si andava via. Era un'avventura. Salutavo le mie stelle. Pensavo a certe storie sui diavoli. Dicevano che quando la luna era piena, come quella volta lì, non saltavano fuori per non farsi vedere. Io però non ero tranquilla. Mia madre non aveva mai paura quando doveva andare. Siamo arrivati a Pavullo che faceva ancora buio. Dovevamo prendere la corriera per Modena e poi andare a Porretta. Quante cose nuove! Io non mi lasciavo scappare niente, neanche la malinconia dei miei fratelli rimasti a casa. Ma poi a Firenze c'era mio fratello Carlo. Carlin, in dov'et? Parto a Vaga Firenze, così mi curo gli occhi e poi ti mando a chiamare. Arriviamo a Porretta. Una confusione e non c'era il mercato. Mamma, dov'hanno tutta sta gente? Vanno nelle fabbriche a lavorare. Cosa vuoi che ne sapesse lei? Tutta quella gente andava dall'altra parte di dove andavamo noi. Ma la barba? Le mia normè. Una sirena continuava a suonare, mi batteva nelle orecchie e non si fermava. Quel signore non era mica matto. Non aveva finito di farsi la barba, tutti andavano in fretta per arrivare a salvarsi. Non è la sirena delle fabbriche, bisogna... Io ho cominciato a correre e non capivo più niente dalla paura. Correvo in mezzo agli altri come impazzita e non mi sono accorta che mia madre non c'era più. Seguendo le gocce per terra dell'acqua che la fiaschetta perdeva, mi ha ritrovata in fondo a una scala. Mi abbracciava. E neanche me ne accorgevo. Su comunisti della capitale è giunta al fine il dì della riscossa. Quando alzeremo sopra al Quirinale bandiera rossa, questa città ribelle mai domata dalle rovine dei bombardamenti. La guardia rossa suona la donata, tutti presenti. 20 anni e più di tirannia fascista, col carcere, il confino ed il bastone, non hanno menomato al comunista la convinzione. Per questa settimana è tutto, quindi l'appuntamento alla prossima puntata, ricordando che per ascoltare questa trasmissione in podcast l'indirizzo online è www.radiocittafugico.it oppure www.ilpioniere.org. Ciao a tutti. Rivoluzione.